Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornate, bentornati alla finestra sul cortile. Buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Chissà perché ci affascina tanto l'idea della fine del mondo, dell'apocalisse. Forse perché pensare a una catastrofe globale ci aiuta a sopportare meglio le nostre tante piccole catastrofi quotidiane. Secondo il calendario Maya, la fine del mondo avverrà nel 2012, tra soli 2 anni. Secondo gli astrofisici tedeschi, invece, abbiamo un po' più di tempo davanti. Infatti è previsto solo nel 2013 il lancio di un satellite Made in Germany che avrà il compito di tenere d'occhio gli asteroidi che potrebbero colpire il nostro pianeta facendoci fare la fine dei dinosauri. Ma quanto è reale il pericolo di una collisione e in che misura, con quali mezzi possiamo difenderci? Ne parleremo con un esperto italiano in questa puntata della finestra sul cortile, ma ci occuperemo anche di letteratura e di genere poliziesco con un ospite di eccezione che vi riveleremo tra poco. Intanto però ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Germania, un satellite salverà la Terra? Inghilterra, delfini stressati. Nuotare con gli umani nuoce gravemente alla loro salute. Stati Uniti, visti dagli altri. Harry De Luca, superstar a Los Angeles. Inghilterra, perché i libri gialli sono sullo scaffale più basso della gerarchia letteraria britannica. America, Beep, storia di un suono che ha cambiato il mondo. Erano gli Aerosmith nella canzone I Don't Wanna Miss a Thing, scritta da Diane Warren, che faceva parte della colonna sonora del film Armageddon, Giudizio Finale, un film del filone catastrofico del 1998, diretto da Michael Bay, interpretato da Bruce Willis e Ben Affleck. È la storia di un gruppo di scienziati eroi della NASA in lotta contro un asteroide killer che minaccia di distruggere la Terra. E proprio della minaccia degli asteroidi parleremo in questa prima parte della finestra sul cortile. E la notizia da cui prendiamo spunto è comparsa sul settimanale tedesco Der Spiegel e riguarda appunto un progetto degli astrofisici tedeschi. È Made in Germany il nuovo satellite Sentinella che osserverà le profondità cosmiche per avvertire la Terra della minaccia di asteroidi. E finora i satelliti americani si erano concentrati principalmente nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Invece Asteroid Finder, questo il nome del futuro satellite tedesco che sarà poi grande come un frigorifero, terrà d'occhio una fascia molto più ampia di cielo. Prima dell'entrata in funzione, però, bisognerà attendere alcuni anni di studi, test e assemblaggio. Il lancio è infatti previsto nel 2013. Troppo tardi per evitare la fine del mondo, se diamo retta alla leggenda Maya. E ancora incerta è anche la maniera che verrà utilizzata per lanciare Astrofinder nello spazio. Ma intanto, a quanto pare, insomma, gli scienziati in ogni paese si stanno mobilitando intorno a questo pericolo degli asteroidi. E proprio per discutere di questo tema abbiamo al telefono un ospite, un esperto che salutiamo, il professor Piero Benvenuti. Buongiorno, buona domenica. Il professor Benvenuti è consigliere d'amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è direttore del Centro Studi e Attività Spaziali dell'Università di Padova, l'Università di Galileo, ricordiamo. Professore, ma quanto è reale il rischio di collisione con un asteroide? Ma il rischio è in effetti reale, ma è molto molto improbabile che avvenga in tempi della nostra civiltà. Sappiamo che nel passato questi impatti ci sono stati e nel passato remoto probabilmente erano anche molto più frequenti. Beh, i dinosauri hanno fatto una brutta fine per quello, insomma. No? Per esempio si pensa che appunto un impatto con una grossa cometa o un asteroide abbia dato origine a questa estinzione di massa. Naturalmente oggi le tecnologie ci permettono di valutare con sempre maggiore precisione questa probabilità, queste possibilità, e questo progetto tedesco si inserisce in questo quadro mondiale di monitoraggio degli asteroidi e di predizione del loro possibile impatto con la Terra. Ecco, ma l'Italia che cosa sta facendo in questo campo? L'Agenzia Spaziale Italiana, per esempio? Beh, come agenzia spaziale siamo inseriti nel programma più vasto dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha appunto un programma abbastanza differenziato e complesso di monitoraggio. L'Italia in particolare si distingue perché da molto tempo ha costruito un centro di calcolo delle orbite di questi asteroidi, che è ormai il centro di riferimento a livello mondiale. Questo centro, che si trova a Pisa, calcola le orbite e aggiorna meglio gli elementi orbitali di questi asteroidi scoperti e osservati, in modo tale da prevedere nel futuro quando questi si avvicinano a distanze, diciamo così, pericolose per la Terra. Quindi nella città di Galileo, insomma, abbiamo il centro più importante per monitorare questi possibili killer, insomma, o comunque sì, questi... è proprio così. Il calcolo delle orbite di questi asteroidi è molto complesso perché i corpi sono molto piccoli, hanno diametri che vanno da qualche chilometro a centinaia di metri o decine di metri, e quindi sono soggetti molto più in maniera evidente all'effetto della gravità dei corpi maggiori, dei satelliti e dei pianeti del sistema solare. Quindi le loro orbite non sono così stabili come quelle per esempio della Terra o degli altri pianeti maggiori, quindi cambiano continuamente a seconda del loro movimento e come sappiamo già dai tempi di Newton, quando ci sono più corpi in gioco, il calcolo di previsione delle orbite è molto più complesso, certo. Ed è uno di quei problemi che non è risolubile in termini assoluti, cioè non si può prevedere a tempo indefinito la stabilità di un'orbita, quindi è importante continuare a fare questi calcoli, e il centro di Pisa è il centro di riferimento a livello mondiale per questo tipo di ricerca. Come vede, professore, il futuro dell'esplorazione spaziale? Il presidente Obama pensa di rimandare l'uomo sulla Luna. Ma diciamo che la decisione che si sta prendendo, che io considero abbastanza saggia, è quella di sperimentare soprattutto con la robotica l'esplorazione del sistema solare prima di pensare ad un intervento dell'uomo. Questo perché le condizioni dei viaggi interplanetari, che quindi richiedono viaggi molto lunghi, di mesi di tempo e di permanenza in orbita, presentano dei problemi proprio per il fisico, certo, umano, che quindi sono al momento non sono stati risolti, e quindi fermare e legare l'esplorazione del sistema solare alla presenza umana, l'essere certo, umano, potrebbe diventare un rischio troppo alto, e quindi un ritardo nell'esplorazione che invece si può fare in maniera molto più efficace e con degli strumenti, senza rischi, con dei robot. Bene, noi ringraziamo il professor Benvenuti, buona giornata, buona domenica, a presto. Grazie e buona domenica anche a voi. Nuotare coi delfini, che emozione! È una delle pratiche più di moda nei villaggi vacanze delle località esotiche, per esempio a Zanzibar in Tanzania, dove fino a 30 barche si addensano in una baia per lasciare ai turisti l'opportunità di tuffarsi e eventualmente di avere un contatto fisico con queste bestie meravigliose. In realtà, scrive Elisabeth De Griffin sul BBC News Magazine, questa usanza, che pure è molto popolare, rischia di danneggiare gravemente l'habitat e soprattutto la vita e la psiche anche di questi animali, che pare che soffrano da queste incursioni dei turisti, soffrano delle gravi forme di stress, e addirittura c'è il rischio che potrebbero allontanarsi dalle zone più ad alta densità turistica, e in questo modo privando anche i villaggi di una fonte di attrazione. Come li capiamo gli amici delfini? Anche a noi certe volte nelle baie della Sardegna a Ferragosto ci verrebbe voglia di nuotare via dalla pazza folla. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani eccellenti all'estero ci porta questa domenica in California, dove c'è molta attesa per il preannunciato arrivo dello scrittore Harry De Luca, che sarà ospite dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles il 7 aprile e farà anche un tour nelle università californiane da San Diego a Los Angeles. Harry De Luca, autore di molti libri, tra cui l'ultimo è Il peso della farfalla, pubblicato da Feltrinelli, nonché noto per le sue traduzioni di testi sacri. Ecco che cosa dovrebbe fare un buon istituto italiano di cultura, invece di limitarsi a organizzare degustazioni di vini o sfilate di moda, perché il Made in Italy, dopo tutto, è fatto anche di beni immateriali, come le intelligenze, le idee e i buoni libri. La finestra sul cortile. Pronto? Pronto, dottore? Mi scusasse se la telefono per dirti a presto. Oh, Gallarella, sei tu, che è successo? Ma deve recarsi subito in loco, in dove io è stato rinvenuto un cadavere. Fammi capire bene, è stato rinvenuto un cadavere, un morto? Sì, sì, dottore. Ah, e il dottor Ozzano dov'è? In loco. Sì, ho capito, ma dov'è il loco? Incontrata Sansovino, dottore. Ah. Senti, sappiamo il nome del morto? Sì, dottore. Cadare, e come si chiamava? Trattasi di Enea Silvio e Piccolomini. Enea Silvio e Piccolomini? E che è, una strage? Non lo so, dottore, così qua sta scritto. Vabbè, senti, se telefono il dottor Augello, digli che lo sto raggiungendo, eh? Va bene. Avrete riconosciuto tutti la voce di Luca Zingaretti nella parte del commissario Montalbano nella fortunata serie televisiva, e questo brano ci aiuta ad introdurre il personaggio che abbiamo l'onore di ospitare in trasmissione, e avrete tutti capito chi è: Andrea Camilleri. Buongiorno, buona domenica. Andrea Camilleri, forse il maggiore scrittore italiano, incoronato non solo dal pubblico ma anche dalla critica, anche e forse proprio in quanto autore di gialli, conosciuto nel mondo come padre del commissario Montalbano, però è appena uscito da Sellerio il suo più recente, il suo ultimo libro, che si chiama Il nipote del Negus. A che quota siamo, Camilleri? 44? Io ho fatto un conto così approssimativo. No, di più forse, ecco, allora non riesco io stesso a tenere il conto. Ecco, però non si tratta di un giallo, ma non è per questo che lo abbiamo invitato in trasmissione. Ci sarà certamente occasione per ritornare su Radio 24 a parlare di questo libro, ma soprattutto per parlare di gialli e di letteratura gialla. Camilleri è l'unico italiano che è stato compreso nella classifica dei 50 maggiori crime writers del mondo, stilata dal Times. Però ha anche attraversato tutti i generi della letteratura, dal romanzo storico al teatro, agli sceneggiati televisivi. Ecco, ma proprio di generi vorremmo parlare con lui, perché Robert McCrum, il critico del Guardian, ha dedicato un articolo proprio a una riflessione su quella che lui chiama la gerarchia, la piramide della letteratura in Gran Bretagna. Prende spunto da una dichiarazione di Ian Rankin, il giallista inglese, quello che tutti conosciamo, dell'ispettore Rebus, ad una radio tedesca, in occasione appunto di una sua visita in Germania, in cui lui avrebbe dichiarato che gli autori di Polizieschi sono come i bambini dei quartieri poveri, quelli della banda non letteraria, cioè sono poco considerati dalla società letteraria britannica. Ora, scrive Robert McCrum sul Guardian, un americano non avrebbe mai detto questo. Questo è tipico, dice, di una società elitaria come quella inglese. E poi lui stesso, Robert Crumb, fa una sua personale gerarchia dicendo che al vertice lui colloca i poeti, subito seguiti dagli autori di teatro, drammaturghi e commediografi, al terzo posto i romanzieri letterari, che considera una specie di classe media, i giallisti invece sono solo al quarto posto. Ma chiediamo a Camilleri, lei non si sente certamente un ragazzo dei quartieri poveri, non è vero? No, non mi ci sono mai sentito, né nella vita né per quello che ho scritto. Ecco, ricordiamo che il suo esordio, Il corso delle cose nel 78, fu un insuccesso. Al successo c'è arrivato poi nel corso successivamente, insomma, ma ha avuto qualche difficoltà anche con la critica, non è vero? Ma ho avuto difficoltà con tutti. Il primo romanzo da lei citato è stato per 10 anni rifiutato da tutti gli editori italiani, tutti. Sì, infatti mi pare. Io avevo una santa pazienza a mandarglieli e loro con altrettanta pazienza mi rimandavano indietro il dattero scritto. E certo, questo è, voglio dire, ci sono dei casi celebri oltre al suo, insomma, pensiamo soltanto al Gattopardo, no? Ma qual è stata la critica peggiore che ha ricevuto, quella che le brucia di più? Quella che mi brucia di più non riguarda un romanzo giallo, riguarda La presa di Macallè, che è un romanzo sul fascismo. Romanzo storico, sì. Romanzo storico, romanzo su quella che è la personale da me subita alterazione del cervello attraverso la Chiesa e attraverso il fascismo, ed era in fondo un tentativo di spiegare come nasce un kamikaze. Sì. E venne accolto come un romanzetto pornografico. Ecco, quella è una delle poche ferite che mi dolgono, pochissime, perché quello è stato non capito come romanzo e ne soffro. Ecco, è curioso questa presa di posizione di Robert McCrum, perché noi abbiamo sempre pensato all'Inghilterra come in fondo la patria di grandi scrittori di gialli, no? Pensiamo soltanto a Conan Doyle o Agatha Christie, no? Ecco, l'Italia addirittura non ha una tradizione in questo senso. Niente, non ha mai avuto una tradizione giallistica, o almeno ha avuto degli italiani che scrivevano dei romanzi gialli, ma non abbastanza per formare una tradizione. Mi riferisco, che so, ad Augusto De Angelis, per esempio. Anni 30. Sì, sì, mi riferisco a Scerbanenko. Beh, quello è un grande. Che è il più grande di tutti, però è un po' come il cinema in Italia. Il cinema non è riuscito a diventare una vera e propria industria cinematografica. Il giallo italiano non è riuscito a diventare alla stessa stregua del giallo inglese, per esempio. No, sono episodi sporadici. Il problema in Italia è stato un altro. Il problema è stato che, arrivato a un certo punto, scrittori, come direbbe Simenon, sì, hanno cominciato a cimentarsi nel romanzo giallo con risultati di altissimo livello letterario. Mi riferisco allo stesso a Sciascia con Il giorno della civetta, ma soprattutto mi riferisco a Carlo Emilio Gadda col Pasticciaccio brutto della Via Merulana, certo. Oh, si tratta indubbiamente di due romanzi gialli anomali. Gadda addirittura non dà neanche il nome dell'assassino. E quindi lascia frustrato il lettore. Però si tratta di due grandi romanzi gialli, polizieschi. O Ora questo ha fatto sì, credo, che la generazione post abbia tenuto conto di questi vertici e in qualche modo abbia modificato il giallo da quello che è la soluzione di un enigma in qualcosa di diverso, nell'analisi del contesto entro il quale quell'enigma accade. Quindi anche un modo, insomma, per raccontare la società italiana, per esempio, attraverso... Esattamente. Attraverso un caso giudiziario, un caso poliziesco, insomma. E guardi che questo avviene anche attraverso l'autore che lei citava, quello dell'ispettore Rebus, no? Sì, Ian Rankin. Esatto, da Rankin abbiamo anche una descrizione della società sua, come l'abbiamo avuto in altri casi, per esempio con il povero Jean-Claude Dizon, che ci ha spiegato una Marsiglia multietnica che è arriva al lettore assai più di un trattato o di un saggio. Certo. Ecco, volevo ritornare un attimo al tema della gerarchia dei generi, di questa pretesa dittatura della società letteraria, che è un po' un luogo comune, no? Lei è uno dei pochi casi di un grande scrittore che si è affermato non soltanto presso il grande pubblico, ma anche presso gli schifiltosi critici accademici. Ma non le pare che in questo momento si stia andando all'estremo opposto? Cioè, oltre al populismo politico, ci tocca sopportare anche una sorta di populismo letterario. Cioè, basta l'investitura popolare, basta che uno faccia un bestseller e diventa un guru che dice la sua su tutto. Beh, anch'io credo di soffrire di questa situazione, in quanto io potrei dire che sono uno scrittore e come posso dire, democraticamente eletto. Sì, però poi anche incoronato, insomma, no? Cioè c'è anche, come dire... Ma la cosa sa, non vale mica. Voglio dire che vorrei una volta per tutte che si abolisse il fatto che essendo in una classifica dei libri più venduti automaticamente si applichi il bollino di scarsa validità letteraria. Certo. Questo andrebbe veramente abolito, perché se Dio vuole, io quando leggo le classifiche, oltre al mio nome, vedo anche quello che so di un Tabucchi. Certo. Che naturalmente non credo che possa definirsi un giallista, ma cioè a dire si procede di pari passo. Sì, oppure Harry De Luca, insomma, non lo so, cioè ci sono anche scrittori di qualità. Però altri no, insomma, quindi non è detto che l'investitura popolare sia sufficiente, insomma. Ma non, no? Basta per niente l'investitura popolare. Diciamo che ci sono dei galloni da guadagnarsi sul campo che non è propriamente l'investitura popolare, altrimenti ricadiamo in un equivoco politico. Certo. Che purtroppo nei nostri giorni è in auge. Certo. Noi ringraziamo Andrea Camilleri, ci fermiamo qui anche perché siamo in regime di par condicio e oggi si vota. Buona domenica e a presto. Grazie Camilleri. Abbiamo concluso l'intervista con Camilleri parlando di par condicio e è proprio la par condicio durante questa campagna elettorale ci ha in qualche modo tolto la parola, ci ha impedito anche solo di pronunciare il nome di un politico di qualunque schieramento. Ogni volta che si nominava un politico, questo nome veniva sostituito da un bip. Ma che cos'è il BIP? Come è nato? In cosa consiste? Ne parla Virginia Heffernan sul New York Times, in cui racconta in un articolo che racconta proprio la storia di questo suono che, secondo Jonathan Stern, professore di studi di comunicazione alla McGill University, è un suono elettrico puramente umano, perché dice né le piante né gli animali emettono BIP. A parte il famoso uccello Roadrunner dei cartoni animati. In realtà noi siamo letteralmente accerchiati dai beep. Quando ci arriva un'email, ma perfino la nostra lavastoviglie, l'ascensore, i robot e i giocattoli dei bambini bippano. se possiamo usare questo termine, ma quando è stato definito per la prima volta il termine BIP? Nell'Oxford Dictionary del 1929. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.